Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Il confettino. Oggi è la data del nostro confettone annuale, perché domani inizia a Bologna, al quartiere fieristico, la Fiera del Libro per Ragazzi, che si svolgerà fino a giovedì 28 e che è giunta quest'anno alla 50esima edizione. Per questo proprio domani ci sarà una riunione solenne del Consiglio Comunale di Bologna col Sindaco e il Ministro della Cultura della Svezia, che è il paese ospite per l'edizione 2013. Esce anche in questa occasione un volume curato da Giorgia Grilli su questa esperienza. La fiera, ricordo, è soltanto per gli operatori, i lettori comuni non possono entrare, ma è comunque un'occasione utile e importante per segnalare le tendenze del mercato. Quest'anno gli espositori saranno oltre 1200, che provengono da 70 paesi. Il pubblico comunque sarà coinvolto in tanti incontri tra ragazzi e autori, tra scuole e autori. E in particolare, per esempio, c'è una casa editrice, la M Edizioni, che organizza un progetto itinerante di promozione della lettura nelle scuole, che poi proseguirà in altre città italiane. E ci sono laboratori presso i musei, feste, mostre, cantastorie e poi naturalmente tutte le iniziative per gli operatori. Il settore naturalmente soffre della crisi complessiva di cui soffre tutta l'economia e anche l'editoria, ma soffre meno perché, secondo una ricerca Nielsen fatta per l'Associazione Italiana degli Editori, nel 2012 il mercato dei libri per ragazzi è calato del 6%, ma meno comunque di quanto sia calato complessivamente il mercato del libro, che ha registrato una diminuzione dell'8%. È un settore questo che vale 200 milioni di euro, vede circa 200 editori attivi e oltre 5.000 titoli pubblicati per oltre 33 milioni di copie stampate. I piccoli ragazzi rimangono degli ottimi lettori. Infatti, se in media sono solo il 46% gli italiani che leggono almeno un libro in un anno, per la fascia tra i 2 e i 5 anni si arriva al 63,3%, per quella tra gli 11 e i 14 anni si supera il 60% e per i 15-17 anni la percentuale è comunque intorno al 60%. Quindi dei dati interessanti che dimostrano la vitalità di questo settore. In questa occasione vi voglio segnalare alcuni titoli, partendo dal paese ospite, la Svezia. Vi segnalo per esempio un libro illustrato di Stina Virsen, Io, è pubblicato da Sonda, 32 pagine, 11,90 euro, che è una serie di immagini sulla nascita del figlio. C'è una casa editrice che voglio ricordare perché è stata ininterrottamente presente per 50 anni alla Fiera del Libro per Ragazzi ed è Giunti, che quest'anno presenta La città del circo popcorn di Angela Nanetti, 96 pagine, 7,90 euro, e poi il primo di una trilogia di una giovanissima scrittrice sino-texana, Katja Zhang, che si intitola Hybrid, 416 pagine, 14,50 euro, libro che ha avuto molto successo nel suo paese. Il Castore invece festeggia 20 anni della propria esistenza e pubblica in questa occasione il libro Parole fuori, 12 storie di scrittori italiani per illustrare 12 emozioni, da desiderio a odio, 240 pagine, 15,50 euro. Edizioni EL scommette invece sulla diversità, innanzitutto la diversità fisica, e parla allora delle avventure e dei sentimenti di un ragazzo diversamente abile nel libro di Anna Pavignano, Tutto quello che vorrei, 170 pagine, 11,50 euro. La diversità ideologica, e vediamo le avventure di un gruppo di ragazzi alle prese col fascismo nel libro di Tommaso Percivale, Ribelli in fuga, Einaudi ragazzi, 250 pagine, 10 euro. E infine la diversità di approccio ai grandi classici, con la nuova collana Classicini, che ripropone ai lettori più piccoli titoli classicissimi come L'isola del tesoro, nel testo ricavato da Stevenson di Pier Domenico Baccalario, 80 pagine, 6,90 euro. Ci sono anche Zanna Bianca, Robin Hood, Il giro del mondo in 80 giorni, curati da Guido Sgardoli nel primo caso, Silvia Roncaglia e Roberto Piumini. Dello stesso Pier Domenico Baccalario che ho citato appena adesso, San Paolo pubblica Nella Bibbia ho incontrato, 414 pagine, 19,90 euro. Questo è un percorso insolito per accostarsi alle scritture attraverso brevissimi capitoli che introducono un tema, un personaggio, che si riferiscono alla Bibbia o ai Vangeli. Dei libri insoliti per ragazzi, nel senso che devono essere ragazzi che amano la letteratura e dunque magari anche libri da leggere anche insieme ai ragazzi, sono i due ultimi titoli della collana Lampi Light di Orecchio Acerbo, e qui troviamo altri due autori classicissimi. Il primo è Edgar Allan Poe con Non scommettere la testa con il diavolo, tradotto da Elena Fantasia illustrata da Giacomo Garelli, 15 euro. Il secondo è un Luigi Pirandello, di cui viene pubblicata una novella, Effetti di un sogno interrotto, con le illustrazioni stile cubo futurista di Michele Rocchetti, 12,50 euro. Nella postfazione Goffredo Fofi ricorda come quest'ultimo, questo di Pirandello, sia uno degli ultimi e dei più originali racconti dello scrittore di Agrigento, nel quale egli affronta il tema della colpa che ha le origini della vita e della morale. Ma sul mercato dei libri per ragazzi abbiamo raccolto alcune impressioni da parte di un esperto, Riccardo Pontegobbi, che con Domenico Bartolini è responsabile di liberweb.it, il portale sul mondo dell'editoria per bambini e ragazzi in rete. Buongiorno a Riccardo Pontegobbi. Buongiorno. Riccardo Pontegobbi, allora, come sta andando l'editoria per i ragazzi e i bambini nel nostro paese? La situazione attuale del settore è una situazione in cui si vede la produzione sottoposta a una certa dieta dimagrante a causa della crisi, quindi vengono pubblicati meno titoli, ci sono meno editori che si impegnano in questo comparto, consideriamo che sono circa 200 i marchi editoriali che sono presenti nel mercato del libro per ragazzi, ci sono meno collane, però il fatturato rispetto agli altri comparti mostra almeno segni di resistenza. Va detto che la media degli ultimi 5 anni di pubblicazioni si attesta sulle 2300 novità per bambini e ragazzi, quindi è una produzione abbastanza ricca, 2300 libri nuovi che tutti gli anni da qualche anno escono in maniera costante. Nel nostro paese i ragazzi leggono più dei genitori? Senz'altro, questo è un dato incoraggiante, abbiamo visto le ultime ricerche, anche qui anche il rapporto sulla promozione della lettura, in cui si dice che almeno il 54% degli adulti non tocca un libro in tutto l'anno. Ecco, come mai i ragazzi leggono e poi smettono così di leggere? Come mai il morbo della lettura non si impossessa dei giovani lettori? Beh, probabilmente va considerato che non è facile nemmeno per i ragazzi leggere, intanto, perché c'è una grande concorrenza di media, ci sono grandi distrazioni nel modo di vivere, nello stile di vita delle famiglie italiane, però ecco, nonostante tutte le varie i vari ostacoli che si possono frapporre a questa lettura dei ragazzi, i ragazzi comunque hanno un indice abbastanza elevato di appassionamento alla lettura. Ecco, che cosa leggono? Quali sono le tendenze che emergono dalla produzione italiana soprattutto? Dunque, va considerata una cosa, che la produzione italiana è una produzione ormai, come abbiamo detto prima, una produzione ampia e matura, una produzione articolata che prevede tutta una editoria di intrattenimento che è molto consistente, quindi una lettura più facile. Poi c'è tutta un'editoria di ricerca che fa libri seri, importanti, belli e appassionanti, però diciamo che l'editoria di ricerca è in minoranza rispetto all'editoria di intrattenimento. Se si guardano alle statistiche, ai sondaggi, anche l'ultimo che abbiamo fatto noi e che presenteremo alla Fiera di Bologna, i libri più prestati, per esempio, quindi i libri più letti nelle biblioteche per ragazzi italiani, sono tutta la serie del Diario di una schiappa, il giornale di bordo di Greg Heffley, dell'editore Il Castoro. Quindi abbiamo al primo posto il primo libro della serie, poi al secondo posto Ora basta, al quarto Vita da cani e al quinto Legge dei più grandi, i primi 5. In mezzo troviamo un Geronimo Stilton, un po' un classico di Geronimo Stilton, Nel regno della fantasia, edito da PM. Mentre voi avete dato il premio per il miglior libro del 2012 a Per sempre insieme, Amen, sì, pubblicato da Feltrinelli, di un autore olandese, Guus Kuijer. È un libro, l'autore è molto bravo, addirittura 2 anni fa aveva già vinto il nostro premio, che non è dato semplicemente dalla redazione della rivista Liber, ma coinvolge oltre 50 esperti che vengono dai vari ambiti professionali, quindi è un premio che vede decidere bibliotecari, librai, ricercatori, studiosi del settore, insegnanti, e quindi è un punto di vista molto ampio e molto articolato. Ecco, questo è un autore appunto che con il libro Di tutte le cose del 2009 aveva vinto nel 2010 il premio per il miglior libro. Per sempre insieme, Amen è un libro molto complesso, ma è un libro che tratta di temi importanti con una grande capacità narrativa e poi con il punto di vista del bambino. Ecco, lei che consigli darebbe a chi deve acquistare i libri per i bambini, per esempio un genitore, come orientarsi in questa panoramica così estesa della produzione letteraria italiana? Non è facile. Ora, naturalmente non possiamo pretendere da tutti i genitori che seguano le riviste specializzate, però potrebbero proficuamente farsi consigliare nelle librerie specializzate. Ecco, l'acquisto non dovrebbe essere fatto casualmente, ma dovrebbe un po' puntare a quei luoghi della distribuzione dove ci sono persone competenti e appassionate che possono consigliare i libri giusti. E tante librerie, piccole librerie italiane hanno questa caratteristica di un bel corpo di librai appassionati e competenti. E poi c'è l'aspetto: chi vuole prendere i libri in biblioteca può servirsi della biblioteca e quindi anche della consulenza delle persone che di solito nelle sezioni dei ragazzi sono piuttosto preparate. Grazie a Riccardo Pontegobbi, buona domenica. Arrivederci. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba e partiamo di nuovo da uno spunto di cronaca, cioè dall'allontanamento dalla giunta del sindaco di Milano Pisapia del suo assessore alla cultura, l'architetto Stefano Boeri, una notizia che ha fatto abbastanza scalpore nel mondo della cultura, anche perché le ragioni non sono state del tutto chiarite di questo divorzio. Proprio Boeri ha scritto da poco un libro con Ivan Berni, Fare di più con meno, idee per riprogettare l'Italia, pubblicato dal Saggiatore, 174 pagine, 14 euro. Il libro si compone di varie parti, c'è un saggio introduttivo dello stesso Boeri, poi un dialogo con Ivan Berni, che è un giornalista e docente universitario, poi una postfazione di quest'ultimo e infine un'intervista dello stesso Boeri con Hans Ulrich Obrist a Henrik Obsvam, il grande storico marxista che è morto pochi mesi fa. Boeri parte in questo libro dalla considerazione che la crisi che stiamo attraversando sarà lunga e stabile e da questa crisi si potrà uscire in una prospettiva, scrive lui, di sviluppo senza più l'ossessione della crescita. Deve essere questa una scelta epocale e culturale dalla quale dovremo imparare, come dice lo stesso Boeri, a fare di più con meno, ossia fare i conti con risorse che non sono più infinite, che si sono esaurite o sono sempre meno disponibili, come la terra, le materie prime, le risorse di investimento pubblico. Ma dobbiamo anche fare di più, dice Boeri, con risorse sociali e intellettuali che sono mal utilizzate o addirittura disprezzate. Boeri indica gli ambiti nei quali si può manifestare questa tendenza, nei quali dovremmo seguire questi obiettivi. Gli ambiti sono quello della nutrizione, della rigenerazione della città, delle infrastrutture, al centro delle quali Boeri pone le scuole da riqualificare, l'energia, la cultura, con l'obiettivo, scrive Boeri, di creare le giuste condizioni per la nascita e lo sviluppo delle imprese creative, la città mondo, la pubblica amministrazione, i diritti civili e la politica. E qua troviamo qualche accenno anche alla situazione attuale, quando per esempio Boeri scrive che i partiti hanno perso qualsiasi rapporto con le tensioni e alle aspettative della vita quotidiana. Restiamo a Milano, parliamo ancora della città di cui Boeri è stato amministratore fino a pochi giorni fa e parliamo innanzitutto della Milano imprenditoriale attraverso due figure che hanno fatto la storia dell'industria italiana. Il primo è Alberto Riva, fondatore dell'omonima azienda meccanica che fu tra le più importanti d'Italia. E ad Alberto Riva è dedicato il libro Alberto Riva e la Milano industriale del suo tempo di Giorgio Bigatti, che è uno storico dell'economia alla Bocconi. È pubblicato da Francesco Brioschi, che tra l'altro è il bisnipote dello stesso Riva, 238 pagine, 30 euro. Curioso e significativo il risguardo di questo libro. Abbiamo una rivisitazione dell'Ultima Cena, un disegno in cui al posto del Gesù leonardesco e degli apostoli troviamo i più importanti imprenditori della Milano d'inizio Novecento, tra cui Riva, che è seduto accanto a Pirelli. Nel libro Bigatti ricostruisce la Milano compresa nel periodo tra l'unità e la Belle Époque, quando la città cresce e cambia senza essere ancora compiutamente industriale, scrive Bigatti. All'alba del nuovo secolo la città più città d'Italia, come l'aveva definito Giovanni Verga, si identificava ormai con le sue industrie e in questo ambiente matura l'esperienza di Riva, che crea un'impresa di turbine che diventerà una autentica potenza. Insomma, una storia d'Italia dal lato degli imprenditori. L'altro imprenditore manager più recente è Giuseppe Luraghi, che troviamo nel libro di Daniela Pozzi, che è una storica dell'economia alla LUIC, Una sfida al capitalismo italiano. Giuseppe Luraghi, pubblicato da Marsilio, 318 pagine, 30 euro. L'Uraghi fu un grande manager, prima la Pirelli, dove cercherà di assumere anche un ruolo da autentico imprenditore, e poi nell'impresa pubblica come direttore generale della Finmeccanica. In particolare si occupò dell'Alfa Romeo, che l'Uraghi, ricorda nella prefazione al libro lo storico Franco Amatori, trasforma in un'industria moderna, sostenendo la produzione di un nuovo modello all'inizio degli anni 50, la 1009, e in seguito legando il suo nome alla leggendaria Giulietta, un classico esempio di vettura da turismo con caratteristiche sportive. Particolarmente interessante dell'esperienza di l'Uraghi, efficacemente descritto nel libro, è lo scontro col potere politico che gli rese la vita impossibile soprattutto negli ultimi anni all'Alfa Romeo, anche per il clima sindacale che si era rafforzato nel nuovo stabilimento di Pomigliano d'Arco. Questo scontro nel 1974 culminò nella rottura traumatica tra l'Uraghi, che allora era presidente dell'Alfa Romeo, e l'IRI, cioè la politica. E questa invece dunque è una testimonianza assai eloquente del clima che per anni ha dominato l'impresa pubblica e ne ha provocato lo sconquasso. Le risorse, le capacità umane e manageriali c'erano, come dimostra appunto il profilo di Giuseppe l'Uraghi, ma la politica volle decidere a tutti i costi, combinando dei disastri. Una Milano, e non solo letteraria, troviamo in un titolo che ritorna di Carlo Emilio Gabda, Verso la Certosa. È pubblicato da Delfi, 252 pagine, 19 euro. Qui troviamo una serie di scritti tra gli anni 30 e 40, raccolti tra il 1959 e 61 e dedicati soprattutto alla terra di Gadda, la Lombardia, e a Milano in particolare. Troviamo per esempio due scritti dedicati a due istituzioni fondamentali della Milano economica: la Borsa, descritta nel 1935, e la Fiera, in uno scritto del 1936. E adesso vi propongo proprio alcune righe con la descrizione febbrile dello spirito imprenditoriale del milanese nell'interpretazione di Gadda. Altrove tu miri l'industriale, il principale, togliere di mano all'operaio il cencio, il pennello, la chiave, la spazzola, e a darsi con amore sopra la sua macchina. Sua, perché 9 volte su 10 è la espressione di una cura costruttiva che ha tratto dall'esperienza di lui stesso e dalla emulazione comune il dispositivo più ragionevole. Dopo reiterate fatiche e rinnovati modelli, dopo anni, pervenendo alla specialità della casa. Il cantiere delle idee tecniche è assai più vasto e laborioso e intricato di quanto non si pensi il romanziere facilone, che partorisce ingegneri burattini e inventori gratuiti con la stessa facilità ad un politecnico per corrispondenza. L'invenzione è un lento portato, un costoso elaborato del mestiere, nel senso alto della parola, più che non un colpo di fulmine, come certi credono, sotto alla zazzera del maniaco. Un'altra Milano è quella di Aldo Maria Valli, il vaticanista del TG1, che abbiamo visto a lungo nelle scorse settimane. Il libro si intitola Milano nell'anima, viaggio nella chiesa ambrosiana, pubblicato dalla Terza, 218 pagine, 16 euro. Questo libro ripercorre la storia di Milano sotto un'altra angolazione, quello della forza che la tradizione della Chiesa ha avuto con i suoi luoghi, le sue basiliche, i suoi santi, i suoi uomini e le sue donne, le sue istituzioni e le sue curiosità, e naturalmente il proprio rito, che come sapete a Milano è leggermente diverso da quello cosiddetto romano. A Milano la Chiesa ha sempre avuto un ruolo centrale fin dal 313, cioè esattamente 1700 anni fa, quando a Milano viene pubblicato il celebre editto che quest'anno ricordiamo, l'editto per la tolleranza religiosa, che in fondo, scrive l'autore, Milano considera con molto understatement. Milano, con l'editto di 17 secoli fa, scrive, ha dato il proprio nome a un provvedimento che ha cambiato molto in meglio la storia del mondo, e se pochi lo sanno è tutto normale. Understatement, appunto. Non è questo di Valli un libro erudito, ma una guida affettuosa alla città da questo punto di vista particolare. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.